Hai per caso due occhi nostalgici? Hai per caso sorrisi più candidi? Hai per caso discorsi più espliciti? Hai per caso silenzi più critici? Per caso nel viso una lacrima, un disagio che dentro si naviga. Hai per caso tu il sangue che è caldo in me, non scorre più. Hai per caso un'angoscia meccanica, una vecchia allegria ancor più carica. Hai per caso un rimpianto che frulla in te, un dolore confuso di valvole? Hai per caso un profilo più statico? Hai per caso uno sguardo più cinico? Hai per caso tramonti che gelano, verità luccicanti che accecano, se non hai più fiducia in me, se non l'hai più, tienilo a mente, mi muoverò come un serpente, attraverso i tuoi giorni più fragili, se non hai più pietà di me, se non l'hai più, serenamente mi schiaccerai. Come un serpente, calpestando i miei sensi più timidi. Hai per caso sussulti tellurici? Hai per caso sorrisi più cosmici? Hai per caso quel sole che hai acceso tu e non c'è più? Hai per caso due mani che cercano? Hai per caso sospiri che tremano? Hai per caso capelli che cadono? Incubi o notti insonni che chiamano? Hai per caso una voglia pettegola, un dubbio che era roccia e si sgretola, una calma apparente che cigola, una fresca ferita che sanguina, se non hai più fiducia in me, se non l'hai più nella tua mente, mi allungherò come un serpente, scomparendo dai tuoi giorni isterici. Ma se tu avrai paura in te, io striscerò continuamente.